Navighi, silenzio, per ripiegare le palpebre. Tu pensi in profondità e tu pensi lontano. Navighi nel tuo sogno, navighi nel tuo lettere e in quelle altre. Non hai il tuo frutti a memoria, ma semplicemente toccali per gustare il dolce o l'amaro. Basta toccarli per ricordare la lettera e il punto finale, o le elissi in la sua assenza. Silenzio per ripiegare le palpebre, tu pensi in profondità e tu pensi lontano. Vedere, sentire, ascoltare, percepire. Con gli occhi coperti vedi ombre, vedi luce, che con il tempo necessario visualizzi il passato e il presente e insinui il futuro. Il tuo sforzo non è di ora, ci sono frutti che hanno anni di invecchiamento, ma che non cadono dal suo albero. I tuoi occhi sono coperti e la tua anima, cuore e vita ti portano alla tua prossima destinazione. La tua anima, il cuore e la vita ti dicono la via e l'istinto di fronte al timone. Silenzio per ripiegare le palpebre. Tu pensi in profondità e tu pensi lontano. Navighi nel tuo sogno, navighi nella tua lettere e in quale altre. Non hai il tuo frutti a memoria, ma semplicemente toccali per gustare il dolce o l'amaro. Basta toccarli per ricordare la lettera e il punto finale, o le lesi nella sua assenza. Vedere, sentire, ascoltare, percepire. Cesare.